Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata al popolo della pasta. Ebbene, oggi parleremo di questo argomento in chiave abbastanza, se vogliamo, non dico polemica, ma sicuramente ci sono molte discussioni attorno. C'è la discussione della, praticamente, della filiera, quindi del riconoscimento della filiera che ha chiesto di essere messo in, diciamo, nel packaging da parte dell'Italia e che l'Unione Europea stenta a riconoscere, comportamenti davvero bislacchi da parte dell'Unione Europea, che riconosce a ben tre paesi, alla Francia, alla Tedesca, alla Germania e perfino alla Cina la IGP ha delle paste, mentre noi ancora niente, ne abbiamo due, addirittura due paste in stand by, e poi ancora la guerra dei pizzoccheri. Insomma, c'è molto fuoco sotto la pentola della pasta. E allora, numero verde, cari radioascoltatori, 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, cominciamo con parlare di questo argomento. Prima delle vostre telefonate o dei vostri SMS, ne parliamo con, diciamo, la persona più adatta a parlare di questi argomenti, che è il presidente dell'Unione Pastai Italiana, nonché un produttore, ed è Riccardo Felicetti. Buongiorno Felicetti. Buongiorno Davide, buongiorno. Allora, io con lei vorrei cominciare a parlare di due questioni. La prima è questa. Diciamo che il campo dei pastai è diviso sul discorso del riconoscimento della filiera, quindi della provenienza del grano, per tutta una serie di motivi che sono anche motivi di vendita, perché si scoprirebbe che il 90% del grano con cui viene prodotta la pasta italiana è importato, quindi sicuramente questo creerebbe forse sul mercato, questo riconoscimento alla pasta italiana, qualche problema. Però d'altro canto c'è diciamo, riconoscere la filiera vuol dire riconoscere chiarezza e quindi dare al consumatore l'origine della materia prima. Voi cosa ne pensate come Unione Pastai? Ma allora, innanzitutto saluto tutti gli ascoltatori e ti ringrazio per averci dato l'opportunità di chiarire, ognuno nel suo modo e nei termini che ritiene più consoni, quella che è la posizione dei pastai. Dal mio punto di vista, e parlo sia come pastaio nelle Dolomiti, sia come presidente dei pastai italiani, ritengo che noi la nostra IGP ce la siamo data, il nostro codice di autoregolamentazione ce lo siamo già dati nel 1967, quando abbiamo deciso di creare una legge di purezza unica a livello europeo, accompagnata solo dalla legge di purezza della birra tedesca. E questo per noi è determinante, perché in questa maniera abbiamo definito i canoni per la produzione della vera pasta italiana. Poi, all'interno di questo, se delle specificità territoriali, locali, di grande valore, di grande qualità all'interno di un territorio vasto e così eclettico come quello nazionale permettono delle altre IGP, noi come pastai siamo decisamente favorevoli al fatto che altri colleghi si diano delle regole ancora più ferree per mantenere all'interno del loro territorio determinate produzioni. Però questo è avulso dal concetto della pasta italiana, che comunque, come tu ben sai, copre il 75% dei consumi della pasta in tutta Europa e copre più della metà dei consumi della pasta al mondo, per cui comunque la pasta italiana è la pasta italiana. E dal nostro punto di vista, il fatto che qualcuno riconosca all'esterno delle IGP, sì, può essere da un certo punto di vista, non può darci una gran felicità, però d'altra parte non lo riteniamo così, lo riteniamo più fuorviante che concorrenziale, ecco, questo è il punto di vista. Bene, rimani con noi Michele della provincia di Padova, già un radioascoltatore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. Allora, no, volevo capire una cosa che secondo me è importante, sapere intanto da chi è formata la commissione che poi deve mettere giudizi così farlocchi e soprattutto poi da chi è presieduta questa commissione, perché io credo che si tratti di una scarsa rappresentanza politica che l'Italia ha nei confronti dell'Unione Europea, perché in un punto di forza come è per il nostro paese la pasta, non è possibile che siamo terzi o quarti addirittura dietro a Francia, Germania, Cina. Ma i cinesi? Ma quando mai hanno visto la pasta i cinesi? Bene, Felicetti, beh, diciamo che la Commissione europea, e, diciamo, ci sono delle commissioni, c'è un iter lungo per ottenere l'IGP e la DOP, ci sono passaggi regionali, poi al Ministero e quindi arrivano a Bruxelles. A Bruxelles ovviamente ci sono dei tecnici che poi danno questi tipi di giudizio in base anche ai vari, diciamo, alle varie istruttorie che sono state fatte nazionalmente. È evidente che ci sono da anni delle decisioni comunitarie che lasciano davvero molto ma molto perplessi. Io non so se l'Italia conta poco a Bruxelles o se le procedure che vengono inviate sono inadempienti, oppure se anche da parte così dei territori non c'è prontezza a presentare, diciamo, queste cose. Poi lo sentiremo, perché avremo due aree d'Italia che hanno proposto l'IGP. Sentiremo da loro cosa ne pensano in proposito, appunto, di che cosa succede a Bruxelles. Diciamo che è veramente sconcertante che, appunto, altri paesi, sicuramente non noti come la pasta, ma guardi che questo non è solamente un problema che riguarda la pasta, riguarda i formaggi, riguarda le acque minerali, insomma riguarda un po' tutto il mondo dell'agroalimentare europeo, e diciamo che noi spesso siamo veramente discriminati. Ora, se contiamo o non contiamo a Bruxelles, forse bisogna porselo questo argomento. Sentiamo Mario da Milano, un radioascoltatore, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono intervenuto più che altro perché lei continua a parlare di GP e di altre sigle, sì. Ma in realtà, scusi, perché non lo spiega che cosa vogliono dire? Perché come si fa ad ascoltare una trasmissione senza sapere di che cosa si parla? Bene. Per gente la quale non è un pastaio. Sì, no, non è solamente la pasta. Guardi che queste sigle DOP e IGP sono per tutti i prodotti agroalimentari, e questa sua richiesta mi fa capire, appunto, come significano ben poco e come l'Unione Europea abbia fatto ben poco per spiegarli. E devo dire che quando queste sigle sono state varate c'era un impegno comunitario a informare il consumatore di che cos'erano. Allora, la DOP è denominazione di origine protetta, vuol dire che quel prodotto deve avere la materia prima e geograficamente deve essere prodotto in un luogo. Il secondo è indicazione geografica di provenienza, e dove, diciamo, è importante la produzione, ma la materia prima può arrivare anche da altri territori. La ringrazio comunque di questa domanda. Andiamo a Maglie, in provincia di Lecce. Ricordo comunque prima il numero verde 800 24 00 24 e andiamo da un grandissimo pastaio, grandissimo nel senso di qualitativo, Benedetto Cavalieri. Buongiorno Cavalieri. Buongiorno Davide. Volevo chiederle, Cavalieri, lei che posizione ha? Cosa ne pensa dell'indicazione della provenienza dei grani, quindi delle farine, diciamo, nell'indicazione, appunto, nel packaging e nella pasta? Beh, comporterà certamente un aumento dei prezzi, e quindi perderemo in qualche misura competitività con altri partner francesi, tedeschi, o che quello che riguarda noi, devo dire con tutta franchezza che noi non abbiamo nessun problema a indicare che il prodotto viene dalle colline pugliesi, da zone limitrofe, e dove effettivamente ci sono i migliori grani. È un problema che probabilmente toccherà la grande industria, che dovrà approvvigionarsi necessariamente di quei grani, che servono per coprire la richiesta, la domanda di pasta, e che non siamo autosufficienti. Non credo che sia il 90%, come mi è sembrato di capire. Sì, l'ho data io, l'ho sparata io questa cifra. Ecco, sì, credo che insomma sia intorno al 30-40% l'importazione di grano duro estero. Grano duro estero che poi alle volte, voglio dire, bisogna dire, è un prodotto, voglio dire, che serve anche per migliorare la qualità dei grani duri coltivati in regioni che non sono quelle del sud e che hanno bisogno di una maggiore quantità di sostanze proteiche soprattutto. Però devo dire anche che i grani pugliesi sono i grani che danno una qualità organolettica assolutamente migliore dei grani stranieri che di provenienza Australia, Canada, nord degli Stati Uniti, non riescono ad avere quella qualità organolettica, sapore, odore, voglio dire, che tanto interessa il consumatore, ma non solo il palato fine, il consumatore italiano che apprezza queste caratteristiche storiche della pasta italiana. Bene, rimanga con noi, sentiamo Luigi dalla provincia di Bari, un radioascoltatore, buongiorno. Buongiorno Paolini, buongiorno. Senta, io l'ho chiamata perché volevo farle, diciamo, questa sottolineatura. Non sono d'accordo sull'impostazione che a volte lei dà di certi problemi riguardanti la Comunità Europea. Secondo me bisogna sottolineare con evidenza la grave situazione a cui siamo esposti, noi che produciamo olio e pasta e tutto il resto dei prodotti italiani. In Europa non valiamo un H, un accidente, questa è la realtà, bisogna dirlo, lei deve essere coerente, non bisogna girarci intorno. Com'è possibile non riconoscere la pasta italiana che ce la conosco internazionalmente? In Europa non ci riusciamo a far dare l'IGP. Quindi è qualcosa che bisogna battere il ferro su questo problema qui. Ma io, colpe di nostra rappresentanza sicuramente ci sono, ma ci sono colpe che partono dall'Italia, appunto, di rappresentanza. Probabilmente non si ha la forza di presentare documentazioni ben convincenti o ben documentate. Ora ne sentiremo appunto cosa ci dicono da Gragnano, perché sono ancora in stand by. Quindi le colpe sono anche della burocrazia, non sono solamente politiche. Non è che il ministro degli esteri o d'altro, pur con le colpe che avranno, si vada a occupare di ottenere la DOP o la IGP in sede europea, anche se sicuramente anche in passato è noto che ci sono stati degli scambi notevoli, tu mi dai una cosa a me, io ti do una cosa a te, tra i vari paesi. Ora magari è un po' più difficile perché sono 27, però ognuno tira l'acqua al suo mulino, quindi se c'è una votazione sicuramente c'è uno scambio sicuramente di favori, e quindi è anche questo il gioco in cui noi, rispetto al resto dell'Europa, come vecchia Europa, siamo sicuramente in minoranza e in difficoltà. Bene, allora andiamo a Gragnano da Alberto Zampino, responsabile commerciale del pastificio Gentile di Gragnano. Buongiorno Zampino. Buongiorno dottor Paolini, come sta? Bene, grazie. E volevo chiedere, voi come state a IGP? Ma noi siamo, grazie a Dio, veramente in tutela provvisoria. L'iter ormai è concluso e attendiamo solamente la ratifica definitiva per poter anche poi stampare sulle nostre confezioni questo sognato e desiderato riconoscimento. Senta Zampino, quanti anni fa è partita la vostra richiesta per ottenere l'IGP? Ma nel 2001. Quindi sono passati 10 anni. Sono passati 10 anni, è stato comunque necessario la costituzione di un consorzio dove le aziende più importanti gragnanesi ci siamo seduti intorno a un tavolo per decidere che è arrivato il momento di tutelare quello che la storia ci aveva appunto creato, certo. E in tanti invece stavano cercando di o copiarlo o comunque di offuscarlo. Senta Zampino, secondo voi questo marchio IGP cosa porta? Perché siamo un po' così diciamo chiari. Voi pensate che vi porti dei vantaggi? Allora, i vantaggi, come le dicevo, possono essere sia di natura veramente, fra virgolette, poetica e storica nei confronti del nostro territorio, che è da sempre vocato alla produzione della pasta, e quindi questa cosa può tutelare il territorio da un punto di vista appunto storico, ma anche soprattutto economico, ma soprattutto può tutelare tutti quei consumatori che credono che la pasta di Gragnano, per tutti i motivi che non le sto adesso a raccontare, ma un giorno mi farà piacere poi dirlo, siano tutelati nell'acquistare quel prodotto, e siamo certi che quel prodotto venga e provenga da Gragnano. Grazie ad Alberto Zampino. Sentiamo Pinuccia da Milano. Buongiorno Pinuccia. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Insieme a tutte le responsabilità che sono nostre probabilmente nel presentare la documentazione, io penso che abbiamo una grossa responsabilità nei nostri rappresentanti all'Unione Europea, perché non fanno sistema Italia. Ci portano tutte le divisioni da cortile che abbiamo e fanno poco sistema Italia, quindi sono anche incapaci di difenderci. Bene, grazie del suo parere. Sentiamo Andrea da Firenze. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Io volevo fare un commento riguardo in generale tutte le denominazioni IGP e DOP, che secondo me come sistema Italia dovremmo tendere invece a diffonderle sempre sempre di più, perché credo che sia una, che è tutta una garanzia per i consumatori, e informare i consumatori su che cosa, sulle componenti e gli ingredienti dei nostri prodotti, credo sia fondamentale anche a livello commerciale. Quindi è una cosa che si riflette in maniera positiva anche per i produttori, oltre che per i consumatori. Io sono d'accordo con lei. Il problema, come ha visto, è che c'è moltissima gente che purtroppo ancora, dopo sono passati una quindicina d'anni, e ancora non si sa cosa siano esattamente, cosa e cosa rappresentano. Quindi credo che questo sia il punto basilare. Se non c'è informazione, non c'è comunicazione, non si comunica cosa significano queste due sigle, è inutile continuare a, diciamo, ottenere DOP e IGP, perché la gente non sa esattamente cosa significano questi due, diciamo, marchi che vengono dati. Bene, allora andiamo in un'altra area molto, diciamo, famosa per la pasta. Andiamo a Campofilone, dove ci sono i famosi maccheroncini di Campofilone, e c'è la pasta di Campofilone. Di conseguenza è un'altra area che sta chiedendo l'IGP. Allora chiedo a Vincenzo Spinosi, che è il presidente dell'associazione nonché del pastificio Spinosi, da quanti anni hanno promosso, diciamo, la richiesta, e come stanno andando le cose? Buongiorno Spinosi. Buongiorno Davide, eccomi qua, grazie di avermi chiamato. Allora, noi abbiamo fatto questa associazione di produttori di maccheroncini Campofilone nel 2008, e ci stiamo dando da fare per varando disciplinare, tutti d'accordo per arrivare a questo IGP. E proprio in questi giorni, diciamo il 6 di maggio, avremo l'audizione a Campofilone, dove verranno i membri del ministero per controllare tutte le fasi dell'IGP se vanno bene, diciamo, ecco. Senta Spinosi, cosa vi aspettate voi dall'IGP? Avete anche voi degli imitatori sulla pasta? Diciamo che è essenziale questa protezione, perché qui uno va su un negozio in qualsiasi parte delle Marche e chiede i maccheroncini che non sono i maccheroncini originali, capito? Perciò questa tutela va proprio a proteggere questa storia, questo prodotto che da anni, dal 400, viene fatto a Campofilone. Ci sono, purtroppo si vende cose non vere in giro, e per tutelare proprio i nostri consumatori. Io volevo intervenire sul discorso DOP e IGP. Sì. Io sono un consumatore di quelli che cerca di essere attento alla qualità di ciò che mangia. È chiaro che se compro un prodotto DOP, chi mi dà questo prodotto DOP mi garantisce che la materia prima è coltivata in un certo modo, coltivata nella regione, utilizzata e trasformata con un certo metodo. Certo, dipende dal disciplinare di produzione, ovviamente. Esattamente. L'IGP invece mi garantisce solo la seconda parte delle cose, non mi garantisce la materia prima. Esattamente. La qualità della materia prima. Allora l'IGP, non voglio dire che sia una truffa, per l'amor di Dio, però non serve assolutamente a niente, serve semplicemente a spiazzare la gente, perché io come faccio a sapere che quel grano che viene dal paese Y o la mela che viene dalla Polonia non siano stati usati dei pesticidi che qui sono vietati? O in misura eccessiva e via dicendo. Quindi l'IGP, secondo me, è una cosa che noi italiani, che abbiamo una qualità del prodotto decisamente elevata rispetto a tutti gli altri paesi, anche europei, dovremmo eliminare. No. Noi dovremmo avere di base il DOP. Leonardo, mi scusi. Avere un prodotto squalificato. No, mi scusi Leonardo, lei fa molta confusione. C'è stato un provvedimento dell'Italia, l'Italia ha proposto e ha approvato di mettere nella confezione la filiera, quindi anche diciamo da dove arriva la materia prima. Ha cominciato con l'olio e ora appunto ha esteso a tutti i prodotti. Il problema è che le resistenze sono a Bruxelles, questo è il punto, e quindi non è assolutamente vero che non serve a niente, perché col provvedimento aggiuntivo proposto dall'Italia serve, e come. Bene, sentiamo ora, abbiamo sentito che appunto qualcuno dice che non serve a niente. Io voglio chiedere a Giovanni Davino, che è presidente della cooperativa Pastai Gragnanesi, se pensano a Gragnano che l'ottenimento dell'IGP non serve a niente. Buongiorno Davino. Buongiorno dottore, la ringrazio di questa domanda, perché come sento c'è un po' di confusione. Il signor Leonardo diceva che, non giustamente, che l'IGP purtroppo non è una cosa da portare avanti. Però il signor Leonardo dimentica che noi abbiamo chiesto l'IGP ma con un disciplinare. Nel nostro statuto, in cui c'è scritto come effettivamente si deve fare la pasta artigianale di Gragnano, ci sono scritti tutti i parametri. Noi usiamo delle semole specialissime in cui ci sta un altissimo contenuto proteico sui 13-14% e un basso contenuto di ceneri, e poi abbiamo tutta la filiera e la lavorazione della pasta che deve essere fatta in un determinato modo, deve essere trafilata e lavorata a bassa pressione, e poi deve avere una lavorazione di essiccazione, che è il cuore della produzione della pasta, a basse temperature, massimo 48 gradi e con tempi dai 18 alle 48 ore. E per finire volevo ricordare che tutto questo è stato fatto, come diceva il mio collega di Gragnano, per tutelare una produzione ultracentenaria che c'è a Gragnano di pasta artigianale di altissima qualità, che viene riconosciuta in tutto il mondo. Ecco, Davino, diciamo che il disciplinare è di tutti, cioè di tutti coloro che presentano, quindi non solo il vostro. Comunque rimanga con noi, sentiamo Marco dalla provincia di Treviso. Marco, prego. Prego Marco. Sì, eccomi qua, buongiorno. Stavo ascoltando la vostra trasmissione, innanzitutto buongiorno a tutti. Io facevo questa osservazione, tutto l'elenco dei prodotti, dei produttori che mi è stato fatto, io quella pasta qui nella provincia mia, non vado al supermercato spesso per fare la spesa con la moglie, non la vedo, non so dove andarla a prendere. Ma guardi, quindi, la pasta di Gragnano è diffusa ovunque, se va in qualsiasi ristorante, niente male, se hai paccheri, allora, sono i paccheri di Gragnano, quindi allora, non diciamo sciocchezze. Beh, per l'amor di Dio, allora ben venga, forse la mia ignoranza può essere palese, però il fatto che non ci sia una commercializzazione dal mio punto di vista capillare proprio nei supermercati dove io posso anche acquistare questa specialità o questa particolarità del centro Italia, mi dispiace, perché ben venga che io possa imparare qualcosa di più e capire qualcosa di più, come si può trovare una pasta. Guardi, sentiamo subito, Davino, voi distribuite in Veneto? Guardi, noi abbiamo distributori in tutta Italia, soprattutto nel Veneto, però voglio ricordare al signore che ci chiama che la pasta di Gragnano è distribuita oltre nei grandi supermercati, nella grande distribuzione, ma soprattutto, io parlo di pasta artigianale, è distribuita nei migliori negozi, quindi in qualsiasi negozio di gastronomia, di enoteche, di dove ci sono prodotti tipici di altissima qualità, c'è la pasta di Gragnano. Bene, grazie, quindi, Davino, grazie perché ho tante telefonate. Passo a Lorenzo Cocco, che è titolare del pastificio Cocco, quindi Fara San Martino, altra zona importante della pasta. Voglio chiedere a Cocco, ma sì, come mai Fara San Martino, oppure, cioè, voi pastai di quella zona non avete mai così richiesto, o magari non lo so, io forse state richiedendo dei riconoscimenti come di origine sia, o di diciamo, o di lavorazione, o di completamento anche di materia prima? Certo, innanzitutto buongiorno, no? E sicuramente un discorso molto complesso e che è difficile da affrontare a livello organico, perché, come dire, poi ogni pastaio è convinto, è sicuro, perché lavora per quello, di fare il miglior prodotto del mondo, no? Perché nessuno di noi pensa mai di fare un prodotto che non sia al 100%. E sicuramente l'IGP è un valore aggiunto sia in termini assoluti, ma soprattutto in termini relativi rispetto al consumatore. Fara San Martino è particolare nel suo ecosistema, perché è un paese molto piccolo innanzitutto, dove però abbiamo delle sorgenti di acqua purissima che sono quelle che hanno generato la tradizione della pasta, in quanto è uno dei due elementi fondamentali per la produzione della stessa. È chiaro però che poi ogni pastificio, ripeto, è convinto di essere, certo. Di essere il migliore e inimitabile. Certo. È chiaro che poi confrontarsi col mercato, confrontarsi con l'opinione pubblica diventa sempre complicato, nel senso che il consumatore ha spesso, per come la vedo io, le idee confuse. Sì, abbiamo sentito infatti alcune cose veramente. Sicuramente l'IGP in questo ambito un po' schiarisce, però è normale anche che ci siano delle grandi opposizioni all'IGP. Certo. Perché poi fondamentalmente la pasta è diventata un alimento mondiale. Io sono pronto a scommettere che a livello medio, nel senso che non parliamo delle produzioni di eccellenza che sono quelle artigianali, che come tali secondo me non possono rappresentare il mercato, perché noi siamo destinati ad essere nicchia, a rimanere nicchia, perché se il nostro mercato si espandesse cambieremo la nostra produzione e diventeremo anche noi industriali, perché poi c'è una differenza sostanziale tra i due modi di produrre, anche se sono pronto a scommettere anche qui che non troverà nessun pastificio che le dice che è un pastificio altamente industriale. Però fatta questa premessa, volevo dire che la pasta nel mondo è buona, cioè l'Italia ha esportato sia la pasta ma sia anche le tecnologie di produzione, quindi è facile trovare ad esempio negli Stati Uniti un produttore di pasta che sicuramente è competitivo in termini di qualità rispetto a un medio produttore italiano. Da perché questo lei punto dice, di vista, certo, l'italianità deve essere tutelata, certo, in qualche altra maniera. Bene, grazie, rimanga con noi, sentiamo Giovanni da Milano, buongiorno Giovanni. Sì, buongiorno, avevo due domande. Se si poteva capire la percentuale di grano nazionale utilizzata per la produzione di pasta italiana rispetto a quella estera, e se si stanno recuperando delle qualità antiche tipo la Senatore Cappelli, il grano duro, e poi volevo ricollegarmi a quello che diceva un ascoltatore prima, cioè il discorso dell'IGP che alla fine garantisce fino a un certo punto, cioè non vorrei che fosse un ulteriore stimolo pubblicitario come è successo per la Bresaola della Valtellina, che alla fine spinge il prodotto, nel senso ne fa aumentare la domanda, però per soddisfare quella domanda, visto che in Valtellina gli allevamenti sono pochissimi, la Valtellina, sì, per la maggior parte si fa con gli zebù brasiliani. Lo ripeto, il provvedimento varato dall'Italia, unico paese europeo, è quello di indicare per ogni prodotto diciamo sul packaging da dove deriva la materia prima. Il problema, ci sono le resistenze a Bruxelles. Volevo chiedere comunque a Cocco se sa la percentuale complessiva di grano importato rispetto al totale utilizzato dalle industrie della pasta. Allora, quello è un dato che in tutta onestà non conosco, perché secondo me è anche difficile da conoscere in maniera esatta, perché il grano poi si presta a tanti intrugli, quindi è un dato che non conosco. Sì. Di sicuro c'è una grande importazione di grano, sì. Questo Benedetto Cavalieri ha parlato di 40, solo 40%, io sono convinto che qualcosa di più. Molto di più. Ma anch'io sono convinto molto di più. Bene, sentiamo Cesare, grazie. Cesare D'Ascoli, buongiorno Cesare. Buongiorno signor Paolini. Sì. Innanzitutto vorrei fare complimenti per la trasmissione. Sì. Ma poi vorrei dire anche un'altra cosa. Sono sicuro che quei signori da Bruxelles che stanno dando questi certificati, no, europei, sì, ai prodotti, sono sicuro che quando vanno in un ristorante sicuramente cederanno una lasagna o una tagliatella invece di questi prodotti tedeschi, francesi, cinesi. Per carità, senza polemiche, però io coordinerei quello. Bene. Però il motivo per cui ho chiamato è un altro. Io per esempio sono cittadino rumeno, no? E posso dire che se a livello nazionale in Italia qui si sta facendo tanto per promuovere i prodotti tipici come la pasta, i formaggi e altro, posso dire che nell'est per esempio si trova ben poco questi prodotti così buoni, così gustosi, così apprezzati qui in Italia, anche da noi cittadini est europei. Bene, per grazie esempio... Mi dica. Pronto? Pronto, mi dica, sì. Buongiorno, senta, io rimango veramente esterrefatto dal non riconoscimento dell'IGP della pasta italiana. Noi nel mondo siamo riconosciuti come proprio i spaghettari, i pastaioli. Adesso la colpa, secondo me, le colpe sono da ricercare nella carenza che noi abbiamo in rappresentanza a Bruxelles, perché se questi signori vanno a Bruxelles per fare la passeggiata il lunedì e il mercoledì ritornano a Roma e c'è gente incompetente, perché mettiamo cantanti, mettiamo di tutto praticamente, perché sono dei nominati, non sono degli esperti a difendere le nostre priorità che abbiamo nel mondo, noi da Bruxelles prenderemo sempre dei grossi schiaffoni. Bene. Gli schiaffoni che tra l'altro sono una pasta, glielo ricordo. Sì, sono una gran pasta, quindi, lo ricordo da quando si vendevano praticamente sciolti. Quindi prendiamo degli schiaffoni, grazie Livio da Roma. Bene, ora passiamo ai pizzoccheri. Passiamo ai pizzoccheri, beh, è scoppiata una guerra, cioè spieghiamo un secondo, poi credo di così, se ho detto qualche imperfezione magari gli dice che io interverrà, mi potrà correggere. E diciamo che ovviamente notoriamente i pizzoccheri sono Valtellina, è stato presentato un disciplinare da cioè un presidente del comitato per la valorizzazione dei pizzoccheri per l'IGP ed è stato bloccato perché quando c'è la presentazione ancora in Italia di un disciplinare e di un riconoscimento ci possono essere delle opposizioni, quindi viene fermata diciamo la pratica e così è successo. Allora sentiamo a Fabio Moro che è appunto presidente dell'omonimo pastificio nonché del comitato. Cos'è successo, Moro? Buongiorno Paolini e buongiorno ai radioascoltatori. È successo che nel 2003, appunto come lei ricordava, la Regione Lombardia ha approvato con un decreto apposito il disciplinare per la produzione dei pizzoccheri della Valtellina e da quel momento, diciamo così, la pratica è stata ostacolata da un pastificio che sentiremo dopo probabilmente, sì. Realizza pizzoccheri non nella terra dove i pizzoccheri sono nati. Come lei sa, la Valtellina è un luogo completamente montano, corrisponde orograficamente alla provincia di Sondrio, quindi nel nord della Lombardia, è molto ricca di prodotti, come lei sa abbiamo molte DOP, molte IGP, la bresaola, i vini, i formaggi, il bitto, eccetera, e abbiamo anche alcune paste, tipo i pizzoccheri, che sono in fase di riconoscimento, ma che trovano appunto in questa opposizione una difficoltà ad andare avanti. Ma sentiamo appunto Giancarlo Fermo, direttore commerciale del pastificio Annoni, diciamo che è l'azienda che si è opposta. Sentiamo appunto, sembra che ci sia una storicità in questa zona particolare dell'alta provincia lombarda. Fermo, a lei. Buongiorno a lei, sì. E buongiorno a chi ci ascolta. Io devo dire, ascoltavo prima in trasmissione, lei parlava di guerra dei pizzoccheri, è un termine che io per la verità rifuggo da questo termine della guerra. Io direi che se possiamo parlare invece di storicità e quindi di diritto di un pastificio che è vero che è posizionato, voglio dire, a Bergamo piuttosto che in Valtellina, ma questo principio vale per tutti gli altri prodotti. Insomma, faccio il caso della mortadella di Bologna, piuttosto che del cotechino di Modena, piuttosto che del parmigiano reggiano, che sono tutti riconoscimenti ottenuti a livello multiprovinciali e multiregionale. Quindi questo non scatta. Mi sembra di capire che siete un'azienda solo. Siamo un'azienda sola, sì, siamo una sola azienda, certo, ma questa azienda, voglio dire, sta facendo valere, ha fatto valere a livello ministeriale la storia del pizzocchero, che la possiamo raccontare in tanti modi, però io parto brevissimamente proprio dall'Accademia del Pizzocchero di Teglio, che cita, voglio dire, nella sua presentazione Meluzza Comasca come inventrice, voglio dire, del pizzocchero in quel di Como. Ci riconduciamo a questo personaggio, Ortensio Landi, stiamo parlando del 1548. Il grano saraceno dunque veniva usato nella cucina lombarda già a partire dal XIV secolo. Ho capito. Sentiamo Moro, ma a questo punto cioè, diciamo che c'è un impasse e quindi non si va avanti come c'è per tanti altri prodotti italiani, lo squacquerone, il ravigiolo, è successo ultimamente sempre in provincia di Bergamo, guarda strano, per lo strachitunt con la T finale. E allora volevo chiederle, ma a voi tutto sommato vi conviene fare questa guerra visto che la gente identifica il pizzoccheri con la vostra area? Ma guardi, noi dobbiamo tutelare le aziende locali e tuteliamo la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Le dicevo, i pizzoccheri sono nati a Teglio in Valtellina e grazie alla tradizione delle nostre massaie, alla loro sapienza hanno acquistato questa notorietà e apprezzamento anche al di fuori della valle, in tutta Europa. Fino certamente, come lei diceva, a diventare nell'opinione pubblica uno dei simboli dell'intera stessa Valtellina. E guardi che comunque il grano saraceno, pianta originaria della Siberia, della Manciuria, in Italia, ma solo in Valtellina, ha avuto una coltivazione sistemica ed intensiva. E quindi lei capisce anche che per difendere e tramandare la coltivazione stessa del grano saraceno, la stessa Slow Food ha creato a Teglio quindi in Valtellina, il presidio del Gran Saraceno, prova del fatto che è proprio qui che si è sviluppato il Gran Saraceno e di conseguenza la materia prima principale e fondamentale per la realizzazione dei pizzoccheri della Valtellina. A noi interessa che questo prodotto sia realizzato nella nostra terra, a meno che venga dimostrato storicamente, cioè con dei pezzi di carta che siano poi esaminati da storici, che anche nella zona della Bergamasca, nella fattispecie a Fara Girardarda nel Trevigliese, si realizzavano i pizzoccheri, ma nella storia, cioè 500, bene, 600. Quindi lasciamo agli storici del Ministero appunto di dare quest'ardua sentenza. Speriamo però che non rimanga tutto così in status quo, perché poi prima o poi delle decisioni dovranno essere prese, ma non solo per questo prodotto, ma per tutti i prodotti che sono lì, che stanno aspettando appunto, magari che hanno fatto degli investimenti, hanno costituito dei consorzi. Bene, grazie a Fabio Moro e a Giancarlo Fermo. Ora io un ultimo radioascoltatore, 30 secondi, Gianna da Firenze, buongiorno. Buongiorno, mi dispiace, faccio un salto indietro, ritorno sulla pasta di Gragnano, sì, ma non ho fatto in tempo prima. Ho un'informazione che forse può essere utile, ascoltatori come quello veneto che ha chiamato dicendo di avere delle difficoltà a trovarla. In realtà nella grande distribuzione, sicuramente Coop S Lunga, si trova molto facilmente, non sarà quella proprio artigianale. Ma no, no, non può essere altrimenti. Però perché ha un rapporto qualità-prezzo eccellente. Se un domani porterà l'IGP dovrà attenersi a un disciplinare, e quindi con tutte le regole di un disciplinare. Volevo tornare al discorso di chi ha molti sms che dicevano appunto non si sa l'origine, ma tutti i prodotti IGP hanno un disciplinare di produzione che indica da dove arriva la materia prima. Ora, se poi ci sono delle truffe oppure ci sono dei mascalzoni, questo è un altro tipo di discorso. Quindi però sul disciplinare è ben precisato da dove arriva la materia prima, e quindi sicuramente si sa da dove arriva. E il problema che molti mi dicono pesticidi o d'altro, ritorno al discorso di prima, è evidente che se ci sono dei mascalzoni che truffano, e allora questo è tutto un altro tipo di discorso che va fuori di quello di cui abbiamo discusso. Bene, grazie a tutti gli intervenuti. Vi do appuntamento a Riposo del Guerriero alle 11.15 ogni giorno con la pillola delle 11.05 e 23.05. Buona settimana a tutti.